Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso. Non sa tornare. Giovedì 21 gennaio, buongiorno a tutti e tutti gli ascoltatori tra la città e il carcere, da me, Caterina Bombarda, e da Ignazio De Francesco, che è qui con me però da Montesole. Buongiorno Ignazio. Buongiorno, buongiorno a tutti. E rieccovi a Liberi Dentro, la nostra trasmissione dove trovate come protagoniste le voci di tutto il mondo che gira, che ruota attorno al carcere della Dozza di Bologna e che, a motivo delle restrizioni da Covid, raduna in questa radio, su questo programma, su Radio Città Fujiko e il canale 636 di Teletricolore, tutte le energie che abbiamo a disposizione per portare le nostre voci, le nostre attività all'interno del carcere e non lasciarlo isolato. Ne approfitto per dire che fine gennaio, inizio febbraio partiranno sempre su per Liberi Dentro, sempre sulla radio e sempre sulla televisione, i laboratori, vero Ignazio? I laboratori di tutto il mondo. Sì, no? Abbiamo pensato di aggiungere perché quel momento è tale per cui tante attività che si facevano, abbiamo già detto, e questo la città deve sapere bene, che il carcere è un luogo di alta cultura, si fa teatro, si fa musica, si fa letteratura, sappiamo benissimo che abbiamo dei romanzieri tra le persone che sono temporaneamente recluse, ci sono delle vere penne della letteratura, e quindi si fanno, c'è la scuola, c'è la formazione professionale, si fanno tantissime attività, purtroppo in questo momento a Bologna soprattutto per le restrizioni sanitarie non è, quasi tutto è fermo, e allora abbiamo detto noi continuiamo, riprendiamo attraverso la televisione, ma non solo su Bologna, ricordiamolo anche l'intenzione è quella di parlare agli amici, alle amiche che sono in questo momento temporaneamente reclusi a Ferrara, a Parma, a Reggio Emilia, a Ravenna, insomma tutte le case circondariali della regione con un bel programma di laboratori di queste tematiche. E quindi, sempre a proposito poi di risorse, aprendo un pochino le notizie, vi do questo aggiornamento sul giornale Il Dubbio, l'articolo di Enrico Novi, in cui si parla delle risorse alle carceri nella legge di bilancio. Infatti sembra per fortuna che si voglia investire sul serio sul sistema dell'esecuzione penale, sulla qualità del trattamento che si trova in carcere, ma finalmente anche sull'esecuzione esterna, cioè vale a dire sulle misure alternative alla detenzione inframuraria. Quindi in particolare che cosa succederà? Che gli 80 milioni destinati fino al 2026 per l'adeguamento degli spazi dove si svolgono le attività lavorative e anche di cablaggio degli istituti di pena verranno destinati al rafforzamento delle infrastrutture, in particolare telematiche. Per noi questa, anche per noi che facciamo Eduradio, questa è una ottima notizia, perché noi speriamo di ritornare in presenza, però il fatto che siano favorite queste attività telematiche è una buona notizia, specialmente per il nostro programma e anche per la possibilità di coinvolgervi. Ma Ignazio, che anche la scuola attenda molto questa cosa, tanti, anche chi fa il polo universitario, cioè noi dobbiamo far rete. Le persone che stanno in carcere sono ferme e lo sappiamo, deve stare il meno possibile in realtà. Il carcere è un luogo dove si deve essere fermati per qualcosa che uno ha commesso, ma il più possibile deve essere breve, essere aiutati a rimettersi in piedi e ritornare quindi cittadini liberi, onesti, e in questo sicuramente tutto ciò che può essere per far rete, una buona rete con la città, credo che sia utile a questo processo appunto di ritorno in libertà. Bene, adesso lanciamo subito il nostro primo brano musicale, sempre Fairuz, che viene ascoltata al mattino, Ignazio, vero? Sì, viene ascoltata al mattino. Se mi consenti, però prima dico una cosa dal mondo arabo ancora, mi ti sei dimenticata, ma lo dico io in un attimo, ci sta in un attimo, cioè della Amir al-Fikri da Al-Arab, un giornale egiziano, che ha proposto un tema molto importante, cioè la responsabilità di entrambi i genitori che sono separati, dove c'è stato un talak, che vuol dire ripudio, divorzio, verso i loro figli, perché il rischio un po', questo soprattutto nel mondo arabo, con il hakel hadana, cioè i figli fin quando sono minorenni sono in mano alla mamma, E questo è giusto perché la mamma è il nido, però rischiano di non vedere il papà se non alcune ore alla settimana. E quindi tutto questo servizio è per spezzare una lancia e dire: guardate che i bambini vengono da due persone, papà e la mamma, e quindi c'è una responsabilità congiunta. E quindi è un tema sul quale sicuramente torneremo a parlare anche con le persone che ci stanno ascoltando. Quindi adesso, senza Lanciamo altre Feroz. esitazioni, ti dico sì, Feruz è ascoltata al mattino e alla sera un Kulzum per andare a letto. E la canzone quindi che vi proponiamo con Feruz, che io amo moltissimo, Sabah Masa, mattino e sera. Dopo il nostro brano musicale, il nostro accompagnamento, proseguiamo con le notizie e sempre con il Galateo arabo, sempre il tema della generosità. Cosa ci racconti questa volta? Abbiamo quindi visto varie cosette, un piccolo dossier, si fa il bene di cuore, si guarda quello di cui uno ha bisogno, fare del bene rende felici, rende più contenti e in carcere posso dire che ci sono tanti atti di generosità, in tanti anni ne ho visti tanti, anche in situazioni di ristrettezza. C'è anche molta generosità in carcere. Un altro dei segreti della generosità è riconoscere che uno ne ha ricevuta di generosità. E sentite cosa si dice qua in arabo. Yumkinu an yakunu ash-shu'uru bil-imtinan, è la gratitudine, imtinan, masdara ilham lil-karam haitsu satakunu. Kun shakira lima ladeik, akthar wa'iyan bi kulli l'ashya' al-jayida lati ladeika fi hayatika. E ti poi dice Iglis wa kum bi amal qa'ima ufakkir fi kulli l'ashya' al-jayida allati fa'alaha an-nas min ajlika wa la tansa abadan shukrahum. Allora ricordati, lui dice, ogni settimana delle cose buone che la gente ti ha fatto e non dimenticare mai di dire grazie. Ecco, c'è qualcuno che pensa che dire grazie perché si rende solo grazie a Dio, ashkurullah. Allora non bisogna dire grazie alle persone, ma è sbagliato anche nella tradizione islamica. Bisogna dire grazie alle persone e se si è ricevuto qualcosa di bene, dire grazie. Questo anche ti rende più felice, perché certe volte uno poi è musone, non è mai contento di quello che ha e non si accorge che ha ricevuto tanto. Cosa ne Quindi, dice Caterina tu? rifacendo una carrellata di questa generosità che ci accompagna, è meglio la mano che dà piuttosto che quella che riceve, l'importanza del sorriso, l'importanza di dire grazie. Stiamo affrontando vari temi, cioè vari aspetti che fanno parte di una cultura generale, no? In cui siamo inseriti, no? Anche non vale soltanto per il mondo arabo, ma anche per noi cittadini che ascoltiamo la radio in questo momento, che vediamo il programma in televisione. Sono consigli buoni per tutti, vero? Sì, E Caterina, Credo che bisogna anche ricordare questo, appunto, giocando su questa, la radice del verbo che abbiamo detto, imtinan, che viene essere grati, però viene anche un'altra parola da imtinan, che è il mannan. Il mannan è quello che rinfaccia il bene che ha fatto. Allora, da una parte c'è imtinan, che è rendere grazie, essere grato, ti ringrazio, e dall'altro c'è quello che ti vuol far pesare di aver fatto un favore, il mannan, il rinfaccione. Ma io ti ho Quelle sono dato. delle cose terribili, È molto, sì. Non si rinfaccia mai alla gente quello, il bene che uno ha fatto. Mai, mai, sta anche male, tra l'altro. Ma parliamo di buon umore. Sempre con. Sì, allora per il buon umore, ecco, una delle pazzie di Juha, oggi veramente pazzia, poi scriveteci le vostre barzellette, sentite cosa combina Juha con i datteri. Allora, ratnu imratuhu yakulu tamaran wa la yakhruju nawahu. Allora, vuol dire che sua moglie l'ha visto che mangiava i datteri e non sputa gli ossi. E dice, ma perché, scusa, non sputi gli ossi? Dice, ma io quando sono andato nel mercato ho comprato, mi hanno pesato gli ossi, ho pagato anche per gli ossi. E lui finisce così, fa'al urmi fizzika shay'an ashtaraytu bi dirahimi. Cioè, forse che allora butto in terra nella spazzatura comprato con i miei soldi, ecco un po' un assurdo, ma fa parte appunto dell'umorismo di Juha. Ma io che sono ignorante, gli ossi, nel senso i noccioli del dattero, anche il dattero è il mio frutto preferito, tra l'altro, sono i noccioli gli ossi, no? Facciamo questa chiarezza, perché ossi? Perché sono chiamati ossi? Gli ossicini nuati, cioè i noccioli, Ah, diciamo gli sì. ossi, diciamo i noccioli, ecco, scusate, giù, bravissima, bravissima, non si dice l'osso, si dice i noccioli, il nocciolo, vedi, passando La in traduzione arabo è araba nawa, all'italiano. e poi viene in India anche, ecco, giochiamo sempre sulle parole, che è l'intenzione del cuore dell'uomo è il nocciolo del suo cuore. Ecco, solo che Juha andava a ingoiare perché diceva: ma io li ho pagati, ecco, nel mercato anche i noccioli e quindi me li mangio. Vedete un po' voi se uno non è un po' matto a fare così. Grazie Ignazio. Secondo stacco musicale, parlando di cuore, io vi dedicherei Fabrizio Moro, una canzone bellissima che si intitola Pensa. Sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro, è nostra la libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano, non solo musica, non solo musica, la testa si gira, è giusta, la mira, ragiona. A volte condanna, a volte perdona. Semplicemente pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole, intatte, reali, come piccoli miracoli, idee di uguaglianza, idee di educazione. E rieccoci, siamo qui con un ospite, oggi un nuovo ospite, Marcello Mattei, che in realtà molti di voi conoscono perché è padre di Oniano. Buongiorno Marcello, e Buongiorno a tutti. dal 2016 sei anche il cappellano del carcere della Dozza, e con nomina dell'arcivescovo Zuppi. Oggi, Marcello, con te non abbiamo il tempo di leggerlo purtroppo, però vogliamo parlare del brano del Vangelo di domenica 24 gennaio, quindi domenica prossima, dove, come dire, si narra dell'inizio della predicazione di Gesù nella regione della Galilea e quindi del suo inizio di predicazione e di annuncio del Vangelo, ma anche fino ad arrivare alla chiamata dei primi discepoli. E siamo nel Vangelo di Marco, il primo capitolo, dai versetti 14 al 20, e una domanda che a me veniva spontanea da farti era proprio qual è il motivo per cui Gesù parte da così lontano, cioè proprio dalla Galilea, invece che fare direttamente la predicazione a Gerusalemme. Sì, infatti è significativo però che Gesù non scelga Gerusalemme, il centro della religiosità ebraica, per iniziare il suo annuncio, ma inizi dalla Galilea, che è questa regione ai confini, è detta anche Galilea delle genti, proprio perché era una regione sostanzialmente contaminata di meticciato, dove i figli di Israele sposavano figlie che non erano di Israele e le figlie di Israele sposavano uomini che non erano discendenti del popolo eletto. E quindi c'era un certo sospetto nei confronti di queste popolazioni, perché erano considerate appunto poco religiose, molto secolarizzate, contaminate. E però, come anche nei Vangeli dell'infanzia, ci viene raccontato che il primo annuncio di Gesù viene dato ai pastori e poi ai magi, cioè a persone che erano tenute scarsamente in considerazione presso gli ebrei di fede osservante, perché i pastori erano gentaccia, diciamo così, e i maghi erano stregoni, quindi assolutamente fuori dall'alveo religioso del popolo di Israele. E però il primo annuncio viene dato a costoro, a quelli che non erano assolutamente degni, a degli improbabili. E così Gesù inizia la sua predicazione in Galilea, in questo spazio, in questa regione dove abitavano persone che erano sospette agli occhi degli osservanti. E questo secondo me è molto significativo. Gesù, il suo primo annuncio, l'invito ad accogliere il Vangelo, viene dato a delle persone che non se l'aspettavano, che non si ritenevano degne di questo annuncio. E tra l'altro lo fa questo annuncio usando delle frasi, per esempio quando dice il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, che sono, come dire, annunciano il tempo della conversione, ma sono anche un po' particolari. Secondo te cosa significano queste espressioni usate così all'inizio della predicazione? Indicano che nella storia è entrata una cesura, c'è una separazione dei tempi, c'è stato un prima e inizia adesso un dopo. Il tempo è compiuto, vuol dire che proprio sono arrivate alla fine le promesse, non c'è più tempo per le promesse, ma ormai è tempo di realizzarle queste promesse. Il tempo è compiuto con un'espressione forse anche un po' irriverente, potremmo dire, Dio non ne può più di aspettare, di annunciare la sua parola, di annunciare che il regno di Dio è vicino, che lui si vuol fare vicino, che non ha più tempo di aspettare che noi andiamo da lui, che noi ci facciamo vicini a lui, ma ormai irrompe lui nella storia, prende lui, viene, si fa vicino a noi, come quando se dovessimo andare a trovare un amico e ci troviamo persi per strada e lo chiamiamo, gli chiediamo dove sei, mi spieghi la strada per raggiungerti e l'amico mi risponde non ti preoccupare, sta fermo lì che ti vengo io a raggiungere. Ecco, Dio dice, il tempo è compiuto, non ho più tempo di aspettare, non ho più voglia di aspettare, voglio farmi vicino a voi, il regno di Dio è vicino. Quello che avete da tempo desiderato, per secoli avete sperato, adesso finalmente arriva e diventa una realtà. E a proposito di tempo, adesso è il tempo di lanciare un brano musicale. Chiedo a te cosa potremmo far ascoltare a chi ci ascolta dalle case circondariali, ma anche la cittadinanza di Bologna. Sai, mi veniva in mente il brano dei Depeche Mode, Walking in My Shoes, perché racconta proprio di questa necessità di fare esperienza della vita degli altri prima di giudicare. E questo inizio della predicazione di Gesù mi fa pensare ad un Dio che vuole proprio camminare nelle nostre scarpe, che vuole mettersi nei nostri panni, che vuole conoscere la nostra storia, perché vuole farsi vicino a noi fino a immedesimarsi con noi. Musica, Depeche Mode. Grazie. to push me through the pain I've been subjected to. The Lord himself forward blush. The countless beasts laid at my feet, forbidden fruits for me to eat. But I think your pulse would start to rush. And now I'm not looking for absolution. Forgiveness for the things I do. But before you come to any conclusion, try walking in my shoes. Try walking in my shoes. Yes, stop running my footsteps. Keep the same appointments I get. If you try walking, if you try walking in my shoes. Bene, riprendiamo sulle note dei Depeche Mode e sempre sul Vangelo di domenica 24 gennaio. Stavamo parlando del tempo compiuto, del tempo vicino in cui Dio si fa presente nelle nostre vite, si avvicina a noi e prosegue poi la predicazione di Gesù con la chiamata dei primi discepoli. E Gesù, quando li chiama, dice loro: vi farò diventare pescatori di uomini. Cosa significa questa immagine? Sì, è un'espressione piuttosto curiosa che forse a noi non rende la forza che poteva avere per gli ascoltatori dei tempi di Gesù. Perché chiamandoli questi discepoli che avevano come attività professionale quella di essere pescatori e promettendo loro, invitandoli a fare diventare pescatori di uomini, li invita a compiere una opera che era considerata un'opera di salvezza. Nella simbologia biblica ed evangelica, il mare è quell'abisso profondo che tutto inghiotte e che fa morire. Mare significa morte, significa perdere il fiato, non poter più respirare, affondare, affogare. Quindi essere pescatori di uomini vuol dire essere chiamati a tirare fuori gli uomini, le esperienze, le storie dei loro contemporanei da quell'abisso del mare nel quale potevano trovarsi avvolti e nel quale potevano trovarsi a sperimentare la morte, cioè a sperimentare qualcosa che toglie il fiato, che ti toglie la vita. Quindi diventare pescatori di uomini non vuol dire fare dei proseliti, ma vuol dire portare, invitare gli uomini a uscire e a liberarli da quelle grinfie del male che sta per avvolgerli e che è appunto simboleggiato nella potenza che ha il mare con questa sua capacità di inghiottire tutto e di togliere la vita. Quindi diventare pescatore di uomini è un invito a portare salvezza, a portare liberazione dal male. Quindi gettare questa rete sugli altri, nel senso di noi, nella nostra umanità, nella nostra semplicità, salvare anche gli altri con quello che ci è concesso, no? Sì, una rete che tira su, ecco, non una rete che inchioda, che avviluppa, che imbriglia, ma una rete che ti scioglie, paradossalmente una rete che tirandoti fuori dal mare ti libera dal male e ti rende più libero. Noi ci vediamo quindi domenica prossima con te, Marcello, e intanto un saluto a tutti i nostri ascoltatori e lancio io adesso un brano musicale dei Coldplay, Fix You. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in and the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it will guide to let it go. But if you never try, you'll never know just what you were. Lights will Anche oggi siamo giunti ai saluti di fine puntata, ringraziamo tutte le nostre ascoltatori, i nostri ascoltatrici tra la città e il carcere, ci rivediamo domani ore 9:30 su Radio Città Fujiko, mentre alle 10:30 al canale 636 di Teletricolore. Vi anticipo chi sarà l'ospite di domani, lei è Maria Inglese, psichiatra dell'ASL di Parma, con cui parleremo di che cosa sia significato anche in questi ultimi mesi essere ostaggi. Nel corso di questa pandemia, anche proprio a livello mentale, di quello che è capitato nelle nostre relazioni con gli altri, quello che può essere una cura, un consiglio per relazionarci in maniera migliore. Vi invito sempre a scriverci all'indirizzo postale Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40136 Bologna, oppure alla posta elettronica liberidentro.eduradio@gmail.com. Buona giornata a tutti e noi ci vediamo sempre domani, sempre qui a Liberi Dentro.